Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica con le riviste italiane e straniere. Devo fare una piccola premessa prima di cominciare le mie segnalazioni delle riviste di questa settimana, perché nella puntata di ieri abbiamo trovato su Famiglia Cristiana questa indicazione appunto di una sociologa inglese che dice: in realtà l'aspirazione vera delle donne non è quella di affermarsi nel lavoro, ma è quella di avere un marito benestante, un marito che abbia disponibilità sufficienti per lasciarle a casa, a occuparsi appunto della famiglia, dei figli, della casa. Una dichiarazione un po' sorprendente di questi tempi, però la sociologa, lo segnalavamo appunto nella puntata di ieri, chiudendo la puntata di ieri, è una sociologa considerata femminista, quindi non c'è da pensare che in realtà abbia delle idee particolarmente antiquate. C'è una curiosa consonanza con un articolo che compare sull'Espresso di questa settimana e che si intitola significativamente "Voglio una vita da casalinga". L'articolo è di Fiamma Sanò e serve a descrivere appunto questa aspirazione che sarebbe crescente per una bella casa, leggo dall'Espresso, un marito da curare, i figli da crescere e tempo per sé. Sono le nuove housewives, cioè le nuove casalinghe, disperate per niente. Non hanno puntato alla carriera, ma al più tradizionale dei sogni, un ménage tranquillo. Quindi un rapporto di coppia, una famiglia, un marito con disponibilità sufficienti. Leggo qualche passaggio dell'articolo della Sanò. Ci sarebbe proprio stata un'inversione di rotta, secondo la sua ricostruzione. L'inversione di rotta, dice, spunta come un'onda lunga nelle statistiche degli ultimi anni. Già nel 2006, un'indagine della Fondazione Schering e del Censis avevano individuato in una fascia di età tra i 25 e i 35 anni, con un titolo di studio medio-alto, quella che avevano chiamato la fidanzata fiduciosa, cioè una donna che aveva un rapporto di coppia stabile su cui proiettava grandi aspettative emotive e anche economiche. Due anni dopo, nel 2008, una ricerca di mercato fatta da Procter & Gamble ha raccontato il ritorno a un modello di famiglia tradizionale e conservatrice, in cui spiccava anche qui una donna, una figura di donna tra i 25 e i 40 anni che sogna una vita tranquilla, ama passare il tempo libero in casa e prendersi cura della casa. Nel 2010, quindi siamo all'anno scorso, un'indagine dell'Istat ha notato che il 34% delle donne tra i 30 e i 39 anni non lavora e non è in cerca di occupazione. Da ultimo, una ricerca commissionata da un mensile, dal mensile Elle all'Istituto Piepoli, presentata proprio nel gennaio, quindi il mese scorso, ha rivelato che quello che rende più felici le trentenni nel 47% dei casi è il rapporto di coppia, nell'11% dei casi considerarsi buone madri. Insomma, sembra quasi che il modello di aspirazione femminile sia mutato, sia tornato un po' a un modello anni 50, come infatti ricorda anche una striscia sopra il titolo di questo articolo, "Voglio una vita da casalinga", e la spiegazione è "ragazze modello anni 50". Ci sono poi delle testimonianze che spiegano questo ritorno alla casalinghitudine, come una volta era stata chiamata. Naturalmente ci sono delle donne che dicono: per venirsi incontro tra uomini e donne bisogna ritrovare i comportamenti accomodanti e sereni delle nostre nonne, quindi ritrovando anche tutto un modello di rapporto tra uomo e donna dei tempi passati, ma ci sono poi anche coloro che invece hanno fatto questa scelta pur avendo o proprio perché hanno un'istruzione superiore. Pare che appunto le nuove casalinghe abbiano quasi tutte, riferisce Fiamma Sanò, un'istruzione superiore. Rappresentano del resto le donne la maggior parte della popolazione universitaria italiana, 6 su 10 l'anno scorso, però il 22% di queste poi decide di non iniziare un percorso professionale, e questa è la percentuale più alta d'Europa. Non tutti vedono questo dato allo stesso modo, cioè non tutti vedono in questo un ritorno al modello passato, ma si segnala invece che il fatto che le donne lavorino poco, ad esempio il parere di Marta Boneschi, sia una rinuncia per l'intera società, perché per alcune sarà anche una scelta, ma c'è una tendenza alla rinuncia tipica dei trentenni di oggi. E se tante sognano di fare la casalinga è sempre appunto l'argomento della Boneschi è per due motivi e problemi soprattutto fondamentali. Uno, c'è un contesto culturale generale, nessuno più dice che le donne sono una risorsa, e anzi dai media passa ogni giorno il messaggio che si possono trovare strade facili, un uomo che provveda ai tuoi bisogni. E poi c'è la cultura familiare italiana che riversa sulle donne solo il ruolo casalingo. Addirittura le madri, spiega sempre la Boneschi, educano i figli in modo diverso a seconda del sesso, però se si abitua una bambina a pensare a se stessa come un po' meno di suo fratello, allora sarà poi un'adulta timorosa, e questo timore, questa paura funzionerà come deterrente. Tutto questo, tutta questa spiegazione di tipo culturale, di tendenza se volete, è sicuramente giustissima. Ci sono però poi anche dei dati difficili e difficili da contestare, che sono quelli della poco sostegno per le donne che lavorano e hanno anche necessità di occuparsi della famiglia. Tant'è vero che qualcuna delle testimoni che viene sentita da Fiamma Sanò dice: la parità alla fine ci ha portato solo a lavorare 13 ore al giorno sia fuori che dentro la casa. Quindi risulta un po' meno sorprendente che poi qualcuna scelga invece di lavorare in casa magari anche più di 13 ore, ma potendosi concentrare su un aspetto soltanto. E allora, visto che abbiamo parlato a lungo di donne, di aspirazioni femminili, visto che registriamo questo ritorno al desiderio di avere una casa, una famiglia, una segnalazione invece che riguarda i bambini. Perché ai bambini piacciono i dinosauri? Effettivamente è vero, tutti noi da bambini abbiamo adorato i dinosauri, abbiamo provato questa attrazione per i dinosauri. Se ne occupa Donna Moderna, che nel numero di questa settimana appunto si pone questa domanda. In realtà a Claudio Risè, che è uno psicoterapeuta nonché uno scrittore, un divulgatore, e Risè spiega che anche degli esperimenti che lui stesso ha condotto, che appunto consistevano nel chiedere a un paziente di mettere in alcune sabbiere degli oggetti che venivano scelti liberamente tra centinaia di oggetti presenti in un locale, e spiega Risè: ricordo benissimo che i bambini, però curiosamente anche alcuni adulti, immancabilmente in queste sabbiere mettevano poi dei dinosauri. La ragione starebbe proprio nel fatto che questi animali sono esistiti molto prima dell'uomo, e quindi giocando con i modellini che li raffigurano i bambini dialogano in realtà con i loro animali interiori, così li chiama Risè, cioè con quegli aspetti istintivi con cui sono stati fortemente in contatto prima della nascita. In un certo senso, ed è la domanda che viene rivolta a Risè da Silvia Calvi, i nostri figli risulterebbero quindi più vicini a questi animali di quanto invece saremmo noi adulti? La risposta di Risè: certo, perché un bambino ha ancora memoria di questa natura tutta istinto, con una natura fatta di bisogni primari come mangiare, toccare, dormire, andare alla conquista dello spazio, e quindi nell'interesse per i dinosauri c'è anche il tentativo di ristabilire un contatto con i propri contenuti istintuali. Poi ci sono i genitori che temono che il dinosauro sia l'ennesimo mostro che va ad abitare le camerette dei figli. Su questo Risè è molto tranquillizzante, dice: è vero il contrario. Un bambino ha in realtà bisogno di collegarsi con i suoi mostri interiori e di voler loro bene, perché rappresentano anche una parte di sé. E quindi la passione per i dinosauri, oltre ad essere in qualche modo un ricordo innato, così spiega Risè, serve anche a scaricare una serie di paure che da bambini ci portiamo dietro. Non è detto che poi la passione si esaurisca, perché come riferisce appunto Risè, anche se c'è una certa separazione a un certo punto tra i maschi che proseguono e le bambine che cominciano prima a interessarsi a giocattoli più umanizzati, come sono tipicamente le bambole, poi anche negli adulti può accadere che questa passione, comunque questa attrazione per i dinosauri, continui a resistere. E allora, visto che siamo in tema di storia, una segnalazione di una storia molto importante, la storia del cristianesimo. Da oggi trovate in vendita con Il Sole 24 Ore il primo di una serie di volumi dedicati proprio alle grandi religioni. Il primo volume è La storia del cristianesimo, primo di due in realtà, perché al cristianesimo sono dedicati due volumi della collana, e la storia del cristianesimo raccontata appunto dalle origini e poi attraverso tutte le varie vicende che hanno interessato la nostra religione prevalente in Italia. È in vendita con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro da oggi, e poi tutte le domeniche presenteremo un volume nuovo. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di donne, di aspirazioni femminili. Adesso torniamo ad argomenti molto più prossimi, un argomento ricorrente, veramente ricorrente, incombente verrebbe da dire sui magazine di questa settimana, è il Festival di Sanremo. Comincia da martedì, quindi oramai è vicinissimo. Ci sono servizi su servizi dedicati ai vari risvolti. Io vi segnalo che su Sorrisi e Canzoni TV trovate tutto il programma delle varie serate. Si comincia tra l'altro appunto martedì con i cosiddetti big, cioè i 14 artisti big, di 14 poi ne resteranno 12, e si andrà avanti fino a sabato 19 alla finalissima. Sanremo è ovviamente un evento televisivo che magari molti di noi fanno mostra di non seguire, di non voler vedere, ma poi tutti gli anni è sempre un successo impressionante di pubblico, di ascolti. Su Sorrisi e Canzoni TV tra l'altro ci sono anche poi tutti i testi delle canzoni presentate sia dai cosiddetti big, appunto dagli artisti più affermati, gli artisti importanti, sia dai giovani, cioè dai debuttanti, ed è tutto su trovate tutto su Sorrisi e Canzoni TV. Ma proprio ai debutti dedica una pagina interessante, in qualche modo anche divertente, Vanity Fair, perché occupandosi di Sanremo intitola questa pagina 20 anni di incompresi, e si chiede, uno guarda il festival, sente un cantante nuovo, fa il tifo, poi non accade più nulla, ma quegli artisti che fine hanno fatto? E vengono messi in fila appunto una serie di nomi che hanno avuto un passaggio a Sanremo, anche magari una certa notorietà nel loro passaggio, ma di cui poi non si sa più nulla. Ad esempio un trio bungaro con Idi Di Bella, con E noi qui nel 1991, devo ammettere di non avere una gran memoria di questo testo, di questa canzone, però questi signori poi in realtà sono tutti nuovamente attivi nella musica, anche se magari meno visibili. Bungaro infatti fa l'autore per vari artisti di primissimo piano, la Vanoni, la Mannoia, lo stesso Yusundur, eccetera, e ha scritto anche con Giusy Ferreri. Con Idi ha pubblicato peraltro 6 album, e quindi ha continuato la carriera diciamo in prima persona, con ampia visibilità. Rosario Di Bella ha ripartecipato poi a Sanremo 2 anni più tardi, cioè nel 90, ha pubblicato in tutto 5 album, l'ultimo suo album è uscito nel 2007, quindi chi si ricordasse invece molto bene di questo trio può ritrovare con Vanity Fair appunto le sue tracce. Ci sono altri casi di persone che appunto hanno fatto questo passaggio a Sanremo e poi sembrano un po' uscite dal cono della notorietà musicale. Si scopre appunto, leggendo questa raccolta fatta da Vanity Fair, che hanno magari continuato a lavorare o stanno lavorando anche ad altissimi livelli in posizioni meno visibili della musica. Allora, Sanremo, dicevo, è un evento televisivo, lo sappiamo tutti, è forse l'evento televisivo più importante, se togliamo le partite della nazionale, per quanto riguarda gli ascolti. C'è un editoriale molto molto pesante sulla televisione italiana, su Famiglia Cristiana, questa settimana. L'editoriale si intitola Il paese della cultura dell'intrattenimento. Sostanzialmente si accusa la televisione di avere stravolto la cultura nazionale, di avere corroso anche l'immagine della famiglia. L'accusa viene ripresa, questo atto d'accusa viene ripreso dall'analisi che i vescovi stessi hanno fatto nelle settimane scorse, appunto parlando di emergenza morale. La televisione avrebbe in qualche modo contribuito a smontare pezzo a pezzo tutta una serie di valori. Il settimanale della diocesi di Torino, segnala Famiglia Cristiana, il settimanale si chiama La Voce del Popolo, ha messo in fila la preistoria, scrive appunto l'editoriale, e la storia di questo anestetizzante cambiamento antropologico grazie alle televisioni, con riflessi però deleteri anche sulla politica e sul bene comune. Ricordo ad esempio che nel 1985 trasmissioni come Il gioco delle coppie o C'eravamo tanto amati ospitavano due ex che si insultavano davanti alle telecamere. Poi sono arrivati i talk show sull'infedeltà, le gare per aggiudicarsi il maschio più seducente, coppie che si riconciliavano però per finta, e così via. Tuttavia, spiega, argomenta sempre Famiglia Cristiana, non è solo un problema di rapporto tra i sessi o di esibizione del sesso. C'è anche il denaro, il guadagno facile, lo sdoganamento di ogni ruota della fortuna, di ogni sogno nel cassetto. La televisione in questo senso ha reso, sono sempre le parole dell'editoriale, ha reso il desiderio pari al diritto e ha smantellato così ogni riflessione e capacità critica, ha inventato poi parole che sono diventati stili di vita. La TV in Italia, non solo quella commerciale, ha insomma spalmato il paese della cultura dell'intrattenimento. Anche il potere alla fine è amato dagli elettori se è seducente più che responsabile e rigoroso. La stessa informazione diventa spettacolo e gossip e ha poco a che fare con il racconto della realtà. Decisamente un atto d'accusa molto duro nei confronti appunto della televisione, o meglio di alcune rappresentazioni delle persone che si vedono in televisione. Allora noi facciamo un passo indietro, parliamo invece di fotografia, così ci isoliamo da questa che può essere una nota polemica molto pesante di Famiglia Cristiana. Alla fotografia perché? Perché presentiamo un volume fotografico che è la storia fotografica della Camera dei Deputati, lo trovate in vendita nelle edicole, nelle librerie, con appunto una raccolta di immagini della Camera dei Deputati dalle origini ai giorni nostri. Naturalmente l'iniziativa si collega alle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. È un'edizione di Alinari, come sapete, è del gruppo del Sole 24 Ore. E dalla fotografia alla televisione andiamo allora al teatro, chiudiamo idealmente il cerchio delle attività in qualche modo visive. Perché al teatro? Perché su Focus Storia c'è una storia del teatro, una storia del teatro in breve, dove si raccontano anche alcune curiose abitudini del teatro delle origini. Ad esempio il fatto che la rappresentazione teatrale serale che avviene in una sala in cui viene fatto buio tra il pubblico per lasciare illuminata solo la platea è una cosa che in realtà è nata solo dopo, alla fine del 1500. In realtà in precedenza, ad esempio in Inghilterra, il pubblico assisteva durante il giorno agli spettacoli e spesso veniva coinvolto in modo attivo agli spettacoli stessi. Nei teatri dell'epoca, nei teatri diciamo prima della costruzione dell'edificio teatro, c'erano quindi dei comportamenti abbastanza liberi, quindi si poteva mangiare, si faceva una certa confusione, non c'era diciamo quell'aspetto un po' sacrale, un po' di concentrazione che invece siamo abituati a vedere oggi. Gli spettacoli, appunto, riferisce Focus Story, erano spesso creati poi dagli stessi attori che vendevano quello che avremmo chiamato il copyright dei loro testi agli impresari e agli editori. C'era un po' di tutto, però mai più delle due ore di durata. Pensavo evidentemente che tenendo le persone ferme in uno stesso posto mentre mangiavano, bevevano birra, insomma questo era un po' l'atteggiamento abbastanza disinvolto del pubblico dell'epoca, ecco, poi tenerli di più a teatro sarebbe stato magari anche controproducente per una buona resa dello spettacolo stesso. E con questa segnalazione sulla storia del teatro concludiamo la nostra puntata di Magazine 24, puntata domenicale che ha visto Paolo Corleoni alla regia. Grazie Paolo, e grazie naturalmente come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Se volete riascoltare questo programma, volete scriverci, volete delle informazioni sui programmi di Radio 24, vi rimando al nostro sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti.